Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La silhouette di un cane a sei zampe che sputa fuoco, nera su fondo giallo, si impone nel dopoguerra come uno dei simboli che accompagnano le trasformazioni che stanno avvenendo nella società, in un paese ancora prevalentemente rurale, ma che comincia ad essere puntellato di stazioni di servizio, autogrill e motel. Per chi cresceva nel secondo dopoguerra, c'erano due cani imprescindibili e molto diversi: quello dolce e tranquillo sui dischi della Voce del padrone e quello nero e allegro dell'Eni. Impossibile dubitare chi impersonasse il passato e chi il futuro. E quell'Italia ancora segnata dalle macerie dei bombardamenti era avida di tutto quello che poteva staccarla dalla sua quiete provinciale. Le sei zampe del cane nero dell'Eni traducevano in un disegno a metà tra la fiaba e il design quell'ansia di nuovo, quella corsa giocosa che tingeva di rosso le macchine da scrivere Valentina di Olivetti. Il mondo contadino non era ancora un ricordo, ma una realtà molto vicina grazie al recente inurbamento. La natura era un dato di fatto e non una realtà da preservare, quindi si era attratti da tutto ciò che era nuovo, artificiale e scientifico. In una parola, la modernità. Era un sogno sorridente che odorava lievemente di benzina. Le auto non erano ancora tante e le prime utilitarie avevano, come la Topolino, l'aspetto di grossi giocattoli. Le autostrade sembravano attraenti e pericolose. Sulla Milano-Torino una serie di cartelli rivelava chilometro dopo chilometro la strada percorsa. In alcuni paesi si spezzava il triangolo chiesa-municipio-castello con un nuovo elemento, il motel Agip. Erano costruzioni avveniristiche e squadrate che facevano assaporare agli italiani l'ebbrezza di un modo di vita internazionale. Non sapevamo di condividere con Le Corbusier questa fiduciosa passione per il cemento. Inorgogliva in modo particolare l'imponente motel di San Donato, costruito da Marco Bacigalupo alle porte di Milano, alla confluenza dell'autostrada del Sole con quella di Torino-Milano. Naturalmente i motel Agip non avevano nulla del motel americano con la sua schiera di casette, ma già il nome bastava con la sua carica evocatoria. Anche l'accoglienza era inconsueta. Bastava dire il proprio nome e la targa dell'auto per ottenere la chiave che apriva una porta colorata. Dietro c'era una camera semplice ed elegante in legno di teak, dove non è raro di trovare davanti a una poltrona l'apparecchio della televisione. Il pavimento era in un attualissimo linoleum, i materassi, avvertiva la guida, confortevolissimi in crine animale. Non importa se allora si viaggiava relativamente poco, quel che contava era essere pronti al grande salto. Il self-service aveva sostituito l'oste di provincia tra pareti di cristallo in tutto un unitore di nickel, acciaio e alluminio. I prezzi erano modici: 650 lire per una minestra, un secondo col contorno, frutta, formaggio o dolce e un quarto di vino. A metà tra il motel Agip e il nastro d'asfalto che avvicinava le città c'erano le stazioni di servizio. Se il motel Agip era la cattedrale, le stazioni di rifornimento erano le cappelle della modernità. I colori vivaci, le larghe tettoie e gli spazi aperti sembravano anticipare le abitazioni di un futuro prossimo. Inoltre, magicamente si poteva mangiare, leggere il giornale e fare eventualmente aggiustare la macchina. Era nato l'autogrill, che scriveva poeticamente nello saito, aveva la grazia di una gazzella. La modernità era ormai a portata di mano, anche se il linguaggio con cui si descriveva il nuovo servizio era ancora debitore del passato. Questi nuovi complessi, ispirati ai più moderni criteri funzionali ed estetici, offrivano la possibilità di dedicarsi alla lettura fumando magari un sigaro o di comprare fiori per chi vuole avere un pensiero gentile e profumato per i congiunti che lo attendono. Sì, perché allora le telefonate intercomunali erano rare e costose. Si parlava velocemente e più ancora ci si limitava a far squillare il telefono una volta raggiunta la meta per rassicurare i congiunti. Si sapeva che dietro questa pioggia di innovazioni c'era Enrico Mattei, una faccia risoluta vista ai cinegiornali, intenta a tagliare nastri di inaugurazione o rilasciare dichiarazioni. La sua silhouette borghese, lievemente appesantita, era quella dei suoi coetanei che stavano ricostruendo l'Italia. Si assomigliavano tutti, quei signori con il cappello, la cravatta e i risvolti della giacca stretti. La modernità era una festa colorata e, grazie a Leni, ormai anche l'Italia poteva parteciparvi. Dopo una breve volata, scriveva Luca Goldoni, l'autogrill ci apparve, illuminato e solenne come un transatlantico ormeggiato, con festa a bordo. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scarafia dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Andrew Bridge ha dedicato tutta la vita alla ricerca di soluzioni per i bambini dati in affidamento. Una condizione che Andrew conosce molto bene, come racconta nel suo romanzo autobiografico Il bambino di Hope. Il primissimo ricordo di mia madre è stata la sua assenza. Non ero più un bambino piccolo, ma ero uscito da poco dall'infanzia. Qualcuno doveva essere rimasto a occuparsi di me, eppure il senso di vuoto era persistente. Se anche mi avevano detto perché ero lì, l'avevo dimenticato. Ricordavo soltanto che probabilmente ero lì ad aspettare. «Tornerò da te», aveva detto mia madre, inginocchiandosi per darmi un bacio. «Ritornerò da te, Andy, lo prometto, tornerò». Se a scuola avessi risposto alle domande, se avessi detto la verità e fossi stato così sincero come il mio cuore mi dettava, quali parole avrei pronunciato? Cosa avrei detto per cominciare? Tutto avrebbe avuto inizio con la parola mamma. Quando mia madre, Hope, compì 16 anni, incontrò Wade, un forestiero di 21 anni che era di guarnigione in una delle basi militari delle vicinanze. A detta di Catherine, Wade era un uomo aggressivo che amava mia madre in modo egoista. Mia madre lo frequentò per circa un anno contro il volere di Catherine. A metà della seconda superiore lasciò la scuola e, in un estremo atto di sfida, sposò Wade nell'ufficio del comune una settimana dopo il suo 17° compleanno. Dopo l'esonero dalla vita militare, Wade convinse mia madre a partire alla scoperta del mondo a bordo di una Chevrolet Station Wagon. Lasciarono il Colorado percorrendo per mesi l'America del Dust Bowl, delle grandi tempeste di sabbia. Quando erano in Missouri, chiamarono Catherine per annunciare la mia nascita, descrivendomi come un neonato biondo più simile al padre che a lei. Vivevano alla giornata, fermandosi dove gli pareva e mantenendosi prima con i risparmi di Catherine e poi utilizzando assegni scoperti. Alle porte di Bakersfield, in California, furono fermati per frode bancaria. Appena ventenni, erano già stati condannati e arrestati. Io non avevo ancora 4 anni quando venni mandato a vivere con mia nonna, che nel frattempo si era trasferita a Chicago. Dopo aver scontato la pena, con me al sicuro a Chicago, mia madre si trasferì a Los Angeles, rifiutandosi di tornare insieme a mio padre e chiedendo il divorzio. Su una panchina di un parco pubblico, Wade acconsentì alla rottura, ma alle sue condizioni. Se mia madre avesse voluto riprendermi da Catherine, Wade si impegnava a pagare un misero sussidio mensile di mantenimento. Quanto agli alimenti per un figlio, non ci pensava proprio. Beni da spartire non ce n'erano. Wade dichiarò che il loro accordo sarebbe rimasto privato, senza l'intervento di nessuna autorità giudiziaria. Le ricordò poi che se avesse rifiutato l'offerta e chiesto di più, o fosse andata davanti a un giudice, per lui non sarebbe stato difficile rubare il bambino, con o senza consenso legale. Dalla propria esperienza, mia madre sapeva com'era facile per una donna perdere un figlio. Accettò il patto di Wade e in cambio abbandonò ogni diritto su di me. In questo modo proteggeva il bambino che amava dall'uomo che disprezzava. Persino con Wade lontano, la paura di perdermi non abbandonò mai mia madre. «Devi stare in guardia», mi diceva. «Un giorno qualcuno potrebbe venirti a prendere». Andy viene affidato ad un istituto e poi ad una famiglia che lo cresce nella totale indifferenza. Ma alla fine la promessa fatta da Hope si avvera e il piccolo Andy si trova sull'aereo che lo porterà all'aeroporto di Los Angeles, dove ad attenderlo finalmente ci sarà la mamma. Capii che era ora di scendere dal segnale dell'assistente di volo. Mi guardai intorno e vidi che l'aereo si era svuotato. Uscendo dal tunnel dell'imbarco con la mia accompagnatrice a fianco, vidi tra la rada folle in vacanza 2 donne giovani che aspettavano. Quella più alta mi somigliava un po'. Era bionda e abbronzata, vestita con un paio di pantaloni a strisce gialle e rosse, una camicia bianca scollata con grandi maniche a sbuffo. mocassini di camoscio e un cappello arancione di feltro a tesa larga. L'altra vestiva in modo esuberante, ma più tradizionale. I suoi capelli erano neri, corti e dal taglio curato. Un maglione senza maniche a collo alto, blu scuro e a coste, lasciava in vista le braccia esili e bianche e metteva in risalto la sua figura sotto le vivaci luci del terminal. I jeans le aderivano sui fianchi e sulle gambe, mentre un paio di stivali neri lisci avvolgevano le caviglie e terminavano in due piccoli piedi. Non ci fu nessuno a dirmi che era lei mia madre, eppure ancora prima che si inginocchiasse e spalancasse le braccia, corsi verso quella dai capelli scuri. Mi accolse serena avvolgendomi fra le sue braccia, mentre la sua piccola figura copriva la mia. Il suo maglione mi graffiò il viso e sentii il freddo delle sue braccia sulle mie. Mi attirò ancora più vicino, stringendomi la nuca con una mano e le cosce con l'altra. Il suo profumo era caldo, un odore di fumo misto a leggero sudore. Nel silenzio del suo corpo potevo udire il suo respiro. «Andy», la voce rauca sospirò, quasi triste. Sollevai lo sguardo su di lei. La pressione nei miei occhi la indusse ad allentare la presa. Mi pose davanti a lei e guardandomi si mise a ridere. «È da tanto che mamma ti sta aspettando». Mi scrollò leggermente, quindi corrugò la fronte, imitando il mio smarrimento con una smorfia. Le restituì il sorriso, abbandonandomi a lei. Poi le dissi ciò che sapevo dire, ciò che avevo imparato da nonna Kate. «Anch'io ti voglio bene». Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Andrew Bridge, Il bambino di Hope, TEA Editore, 352 pagine, 12 euro.